benvenuti a questo corso. Su Proust voi invece li conoscete. Diversamente da quelli del primo anno, chi è che mi conosce già? Alzi la mano che mi conoscete in un numero cospicuo. Noi parliamo di una cosa molto bella, molto importante, che è il romanzo più significativo, più del Novecento, insieme all'Ulisse di Joyce, naturalmente. Parliamo di Alla recherche du temps perdu, un caso unico nella storia della letteratura, perché si tratta di un'opera di più di 3100 pagine, che si dispiega per 7 parti. È un solo romanzo. A persone che già conoscono un po' la letteratura francese dovrebbero conoscerla. Chi ha fatto l'esame quindi con me? Tutti. Qualcuno ha fatto l'esame con me. Sapete che c'è un grande scrittore dell'Ottocento che si chiama Balzac, che ha scritto un ciclo di romanzi che si chiama La Comédie Humaine, 99 romanzi, eccetera. Ma la differenza sostanziale è questa, che i 99 romanzi sono romanzi ognuno considerabili a sé stante. E poi La Comédie Humaine è un titolo che li raccoglie tutti. Laddove Alla recherche du temps perdu è un solo romanzo, diviso in 7 parti. Questo romanzo ha cambiato il volto del romanzo nel mondo. E se avete i telefonini accesi vi pregherei di spegnerli, perché altrimenti c'è un'interferenza. Chi l'abbia acceso, scusate, sennò mi dà fastidio. Dunque, perché lo ha cambiato? Perché voi sapete che cos'è un romanzo? Un romanzo è la storia di un personaggio. Di un personaggio o di più personaggi normalmente, con una peripezia, con una storia che li, con una vicenda che li riunisce. Questo romanzo è questo, la storia di un personaggio e di altri personaggi, più una dimensione saggistica. Quindi qualcosa di estremamente nuovo nel panorama della letteratura mondiale. Quando dico saggistica intendo dire che la recherche parla anche, oltre che della storia che racconta, parla di critica letteraria, pittorica, musicale, parla come si deve scrivere un romanzo, di come si può scrivere o si deve scrivere un romanzo, che è il romanzo poi che lui stesso sta scrivendo, e parla di filosofia, con alcuni nomi fondamentali che fanno capolino in modo esplicito o implicito. Il nome di Schopenhauer e il nome di Bergson. Schopenhauer è un grande filosofo dell'Ottocento che ha scritto il suo famoso, come si chiama il titolo dell'opera di Schopenhauer? Qualcuno? Il mondo? Come volontà e rappresentazione. È un libro, pensate, che è stato pubblicato nel 1819, però ha conosciuto poca fama allora. La vera fama l'ha conosciuta nella seconda parte del secolo, in cui ha influenzato sommamente il pensiero europeo e in particolare alcuni grandi scrittori, ne dico uno che conoscete, spero che dobbiate che conosciate, che è Thomas Mann, l'autore della Montagna Incantata. Schopenhauer influenza senz'altro moltissimo Proust, insieme a un altro che era una specie di parente di Proust, un cugino di secondo grado, una cosa di questo genere. che era Bergson. Bergson. Entrambi, sia Schopenhauer che Bergson, mettono in evidenza aspetti razionalistici dell'esistenza, molto diversi fra di loro. Ispirano Proust, e Proust è ispirato anche, peraltro, da quelli che sono, ci sono stati nel 600 in Francia e si chiamano moralisti. Moralisti, noi oggi quando diciamo moralista intendiamo una persona che vuol dire come bisogna comportarsi, no? Il moralista del 600 è anche questo, ma è prevalentemente una persona che descrive i costumi delle persone, costumi morali si intende delle persone. Fra costoro dovreste conoscere il nome, ove non lo conosciate sarebbe opportuno che compraste un libro al riguardo, poi facile e affascinante, che è La Rochefoucauld, La Rochefoucauld, che ha fatto un libro che si chiama Massime, Riflessione e Massime, è terribile e bellissimo, in cui c'è una visione crudele, cattiva, pessimistica dell'uomo. E direi che questi due filosofi che ho menzionato prima e questo moralista hanno influenzato moltissimo Proust. Quindi vi ripeto che è un romanzo che oltrepassa quello che si sapeva del romanzo fino allora, perché è, oltre che un romanzo che racconta una storia di un personaggio, del personaggio che è lui, che è lo stesso Marcel Proust, però camuffato, e infatti non viene chiamato Marcel, non viene chiamato, solo a un certo momento dice: se il nome di questo personaggio qui fosse lo stesso, se il mio nome fosse lo stesso dell'autore di questo libro, sarebbe Marcel. Noi lo chiameremo il personaggio principale, il protagonista di questo libro, di questo enorme romanzo, lo chiameremo il narratore, con la N maiuscola, il narratore. Romanzo saggio, quindi, che parla di critica artistica, che parla di filosofia, e vi ho detto quali autori si riferisce, e dice, analizza come si deve scrivere un romanzo. C'è anche un altro motivo per cui la recherche rappresenta un tale cambiamento nel romanzo dell'europeo, perché c'è un rinnovamento della scrittura. Ma ascoltate, si può rinnovare la scrittura in molti modi. Per esempio, la si può rinnovare da un punto di vista lessicale. Usando parole mai usate, neologismi. Si può rinnovarla da un punto di vista sintattico. Per esempio, nel caso dell'altro grande libro che siamo sempre obbligati a tenere presente parlando di Proust, La Recherche, cioè L'Ulisse di Joyce. Chi ha letto qualcosa dell'Ulisse di Joyce? Nessuno di voi? Nessuno di voi. Chi fa inglese di voi? Non avete letto neanche qualche pagina dell'Ulisse. Chi ha letto Amleto? Ma chi è beato? Chi era Amleto? Un uomo o una donna? Ecco, bene. Ma c'è qualcosa. Siamo già abbastanza vicini. Joyce ha rinnovato dal punto di vista linguistico, lessicale, nelle parole, il romanzo, oltre che dal punto di vista sintattico. Dovete sapere che in Proust non c'è alcuna novità lessicale. La lingua di Proust, il linguaggio di Proust è piano, piano, dove è che è avvenuto il rinnovamento? È avvenuto sul piano invece non lessicale ma sintattico. È una cosa molto complicata, vi spiegherò, ma mi limiterò per ora a dirvi questo. Proust ha inventato una frase, un tipo di frase che si ritrova molto spesso in lui e che si affianca al tipo di discorso normale che si usa per raccontare qualcosa in una narrativa, per esempio, realistica. Qual è la frase che ha inventato? Una frase lunga che riproduce il nostro pensiero. Quando noi pensiamo qualcosa, noi pensiamo, ma mentre stiamo pensando una certa frase, ci viene in mente che questa frase può essere corretta, ci viene in mente altre considerazioni che improvvisamente irrompono e di cui vogliamo tenere conto. Quindi io in questo momento qui, vediamo se riesco a inventare questa frase proustiana. La invento io però, eh? Quindi non è proustiana, ma si parva licet componere manis, è guaraldiana. Cerchiamo di inventare questa frase adattandola alla lezione di oggi. Vediamo se riesco a fare qualcosa. È difficile, eh? Essendo uscito questa mattina di casa per tempo per recarmi a fare lezione all'università e in particolare al primo anno del corso di letteratura francese, ma non solo, anche al terzo, sebbene poi per il terzo vi sia un'ora riservata successivamente alla prima, ore che vengono peraltro tenute nella stessa aula che si trova in un edificio caratterizzato da squilibri termici notevoli, perché ha un gelo profondo dovuto all'ampiezza delle vetrate non perfettamente chiuse, il che è stato causato da errori palesi di costruzione, i quali errori sono stati dovuti a un desiderio di risparmiare sui costi delle materie prime, nonché tenendo conto le alte esigenze delle maestranze, che avrebbero potuto essere utilmente sostituite da maestranze extracomunitarie, le quali chiedono allora molto meno di quanto chiedono le maestranze italiane. Ma allora, quando l'università fu costruita, non c'era ancora questa apertura, che poi successivamente è stata inevitabile, dell'Italia a paesi extracomunitari, laddove adesso l'edilizia a Roma è completamente manovrata dai romeni. Avete capito bene? Apprezzate questo sforzo. Questa è la frase proustiana. Questa è la frase proustiana. Una frase in cui c'è una proposizione principale. Mi sono recato a fare lezione all'università, però vi sono proposizioni secondarie che rappresentano delle inserzioni di pensieri successivi. E quel che colpisce in questa frase, che genera un certo senso di ansia, perché non ne vedi arrivare alla fine, perché in teoria puoi continuare fino per due, tre pagine, ci sono dei periodi proustiani molto lunghi, accanto a una scrittura, diciamo così, più tradizionale. Quel che colpisce è che questi incisi, queste incidentali, queste proposizioni secondarie, non sono, come dire, dovute a una volontà esibizionistica, no? A fini meramente estetici, ma direi a un fine etico. Lei la conosco bene, come si chiama? Angelica di cognome? Orfana. Angelica. Angelica mi ha seguito, quindi il primo anno è questo. Sì. È questo, me ne ricordavo l'anno bene. Scorso, no. Non ho, e no perché era il secondo anno, ma il primo l'ha seguito però. Sì, appunto, sì, quello che dire. Che stavo dicendo? Che non sono legate solo a finestre. No, ma al bisogno, attention please, di dire la verità. Questo è un punto sostanziale. Mettiamo che io adesso faccia una dichiarazione a una bella ragazza, ma voglia attenermi ai moduli prustiani. E quindi voglia dire assolutamente tutto quello che penso. E allora comincerò così. Deciso di parlare al modo di Proust, cioè abbastanza forbito. Avendo analizzato lo stato dei miei sentimenti nei tuoi confronti e avendo anche notato una certa predisposizione fisica quando vedo il tuo corpo, effettivamente non dovrei entrare in questi dettagli che potrebbero turbare la tua sensibilità, ma non posso fare a meno di notare che nel mio corpo, e segnatamente nella parte inferiore del mio corpo, noto delle pulsazioni che potrebbero inequivocabilmente mostrare un mio desiderio di arrivare a una qualsivoglia contubernalità con te, ma di tipo segnatamente maschile. Non so se tu hai compreso esattamente quel che voglio dirti. Renditi conto però che non sono certo che a questa indubbia propensione del mio corpo non corrisponde forse, almeno al momento attuale, una propensione uguale dell'animo. Per cui se tu traessi la conclusione che io da questo semplice ma inconfutabile desiderio che ho del tuo corpo potessi poi chiederti di sposarmi, credo che la mossa sarebbe un po' azzardata. Lei non è italiana e quindi non può apprezzare questo, però ha capito qualcosa di questo che ho detto. Però ci sono qui degli italiani che hanno capito benissimo. Ha capito bene che cosa ho detto io adesso. Ora immaginiamo che io avessi detto una cosa del genere a una bella ragazza, e se la ragazza avesse avuto una testa adeguata per seguirmi, probabilmente sarebbe rimasta, scusate la modestia, l'immodestia, ammirata, però certamente sarebbe, ma questo è pazzo, avrebbe pensato, no? Perché come si sarebbe potuto tradurre una frase del genere con minore dispendio di parole? E usando il dialetto che ci accomuna, essendo romani, no? Te voglio scopare. Però, oltre questo, non so. Avete visto il giro di corpo? Ve l'ho reso molto plasticamente. Aggiungo che questo bisogno di dire tutto, di precisare, perché io potrei anche invece, al di là della semplificazione che ho usato romanesca, io potrei anche dire perché faccio tutte queste precisazioni se in realtà quel che voglio è portarmi a letto questa ragazza. Perché? Perché voglio essere sincero. Cioè voglio dirle che lei non deve montarsi la testa, che step by step, un passo alla volta, che adesso sono ancora incerto, voglio essere sincero. Attenzione, in questa volontà di sincerità Proust ha un maestro, un precedente che è stato fondamentale per la letteratura europea. È Rousseau. Rousseau, nelle sue Confessioni, libro meraviglioso, di cui io vi consiglierei di leggere anche solo qualche pagina, perché, attenzione, vi dico una cosa molto importante: la letteratura buona, buona, per quanto non sterminata, è immensa. E se voi siete all'università, dovete cercare, arrivati al terzo anno, di uscire da questa logica mediocre e taccagna del chiedere, ve lo dico nel vostro interesse, voi capite, a me che me ne viene? Me ne viene qualcosa? Non me ne viene niente. Di dire: professore, devo studiare da pagina 118 a 127 o a 128? Il livello di imbecillità, sapete, il vecchio detto, la mamma dei cretini è sempre incinta, eccetera. La risposta brutalmente del professore che volesse usare un linguaggio adeguato è: ma a me che cazzo me ne frega? Che me ne frega? Tu fai quello che vuoi, io ti ho dato uno spunto, ma poi io dormo lo stesso se tu studi a gente. Oppure non dormo stanotte, pensavo, questo studente non ha studiato pagina 129, gliel'ho chiesto. Prova ad avere un rapporto con mia moglie. Non ce la faccio. E voi mi dite: ma come è, caro? Sei stanco? Non oso dirtelo. No, dillo, non ti capisco io. No, sei. Ho uno studente che non ha studiato fino a pagina 129. Ecco, cercate di capire che quindi quando vi do dei suggerimenti, prendeteli proprio per quello che sono, per aprirvi la mente. E questo è il punto. Allora, le Confessioni di Rousseau sono da, come tutti i libri, non sono da leggere. Non dovete avere quest'idea che l'intero deve dominare la vostra vita. Questo discorso vorrei che lo capiste nella sua entità. Il parziale deve dominare la vostra vita. Tu hai un incontro con una persona, un amico. Prendiamo un po' alla larga di inizi perché capiate questi concetti fondamentali. Questo amico non può darti 10 come tu vuoi, ma soltanto 4. Se tu cominci a dire: se non può darmi 10, nulla. Non hai capito niente dell'esistenza. Com'è fatta la vita di un essere umano? Prendendo sempre una scala da 1 a 10. Da quello che ti può dare 2 su 10, il 2. Da un altro che ti può dare 4, prendi il 4. Tu ti sposi o comunque vivi con una persona. Non puoi pretendere che questa persona ti dia 10. Non è che le donne sono tutte bellissime, che gli uomini sono tutti splendidi. Per esempio, io sono convinto che una persona come Angelica cerca la bellezza fisica dell'uomo è un fatto essenziale. Se incontra un uomo che le piace, le dice: scusa, togliti per favore la camicia, vorrei misurarti i bicipiti. Se i bicipiti non sono adeguati, ma io ho un'altra cosa adeguata. No, io sono fissata con i bicipiti. Voi capite che noi dobbiamo accettare il parziale anche nella conoscenza intellettuale. Tu un libro non lo capisci tutto, pazienza, lo capirai. Io che vi sto parlando ho letto delle cose 30 anni fa che non capivo bene, poi dopo le ho rilette le capivo meglio. Ad Adesso li capisco benissimo, voi direte. Ma caro professore, a un certo momento verrà il momento in cui lei sarà preso da un Alzheimer spaventevole e non capirà più tu. Sì, fino ad allora mi barca meno. Mi barca meno. Si capisce, si ama, si incontra la vita intorno a noi. A piccoli passi, per approssimazione. Se tu prendi un grande libro, lo tieni qua, leggi. Anzitutto lo hai in mano, no? Su internet vale lo stesso. Ti prendi Google Libri, vuoi vedere qualche pagina, leggi poco. Quando vi dico leggi poco, sapete perché ve lo dico? Perché bisogna sempre arrivare a un punto in cui non, quello che dicevo prima, in cui non ti scocci. Quello che noi facciamo secondo piacere va bene, quello che facciamo contro il piacere va male. È chiaro un punto. Nelle Confessioni di Rousseau, lui comincia dicendo nella prima pagina, quindi la prima pagina potreste leggere il trebbio che ci sarebbe da schiaffeggiarlo, lui dice questo: io sto per parlarvi di me stesso e quello che vi dirò non ve l'ha mai detto nessuno. E vi voglio dire tutto quello che io sono. Per cui se altri dicono che non basta, si sbagliano, perché vi assicuro che il mio scopo è di dire tutto quello che so di me stesso. È una pagina fondamentale. Fondamentale. E certamente alla base della frase proustiana che vi dicevo c'è questa volontà di dire tutto. Recherche confluiscono alcuni tipi di romanzo precedente. Il cosiddetto romanzo realistico, anzitutto. Il romanzo realistico, voi qualcosa sapete già dagli studi che avete fatto, è un romanzo che mira a raccontare le cose così come sono. Ma chi è che mi sa dire qual è il punto fondamentale? Senza che appaia la figura dell'autore, perché se appare la figura dell'autore l'impressione di verità è minore. Va bene? Chi è un esponente del romanzo realistico? Dica lei. Balzac. Un altro? Vabbè. Il terzo? Standard. Sono tre. Il romanzo realistico descrive delle classi sociali. Classi sociali che possono andare, prendiamo il caso di Balzac, dal proletariato alla piccola borghesia, la borghesia media, l'alta borghesia, l'aristocrazia. E Proust si attiene a questo modello, descrive classi sociali prediligendo borghesia, alta borghesia, aristocrazia, ma anche mettendo qualche figura di proletario. Il romanzo realistico vuole una descrizione, ripeto, delle cose così come sono, senza alterazione, direi con una sorta di implacabilità nel far vedere le cose così come sono. Poi c'è un altro tipo di romanzo che affluisce o confluisce nella Recherche, è il cosiddetto romanzo di analisi, in cui non succedono avvenimenti esteriori importanti, ma si analizza, come dice la parola, si analizza la psicologia di un personaggio. Prendiamo un tipico romanzo di analisi francese che influisce su Proust. Adolphe di Benjamin Constant. Chi è che conosce di nome questo romanzo? Lo conoscete. inizi dell'Ottocento, che racconta quanto segue. A me gli occhi, un secondo, chi non l'ha letto varrebbe la pena assolutamente di leggerlo, è bellissimo, fascinosissimo. Racconta di uno che ha una donna più grande di lui. Agli inizi è un rapporto difficile, poi lei si innamora moltissimo e sapete come capita nella vita, che in un rapporto agli inizi uno non ama e l'altro sì, poi c'è il rapporto e la persona che amava di meno arriva ad amare molto di più e quello che aveva amato di più si stufa. Ecco, lei ha un'occhiata, un sorriso complice, si stufa. Ora vi devo fare una confessione. Uno dei tormenti più gravi della vita, peggio di una malattia, è quando tu non ami più la persona che ti ama. Sei ormai legato, affezionato. Due. Tre, perché scardineresti la tua esistenza. Chi ti porta il sabato a mangiare la pizza? Quattro, perché staresti solo e ogni essere umano ha una paura tremenda della solitudine. Stiamo parlando di questa situazione in assenza di un tappabuchi, eh? Stare con la persona che tu non ami più è come mangiare una minestra riscaldata, che può anche essere buona, come dipende, può essere molto buona. Guardi, sto parlando io per esperienza di una minestra meravigliosa di ceci che ho mangiato ieri, quindi so quello che dico. Ma quando la minestra ti viene riproposta per due giorni di seguito, ed è una prosa lirica, il cui il modello è Chateaubriand. Cerchiamo di capire cosa vuol dire prosa lirica. È una scrittura armonica, armoniosa, suadente, in cui quello che importa è soprattutto la bellezza della frase, non tanto il contenuto, ma la bellezza della frase. Questi tre tipi di scrittura confluiscono nella recherche. Qual è il tema della recherche? Il tema della recherche è in fondo l'autobiografia del personaggio che dice io. Lui racconta la sua vita. E qui cominciamo a entrare in un campo estremamente interessante, perché la vita del personaggio Proust è una vita di pochissimo interesse. Di pochissimo interesse. Spesso mi sono trovato a pensare se è più interessante la vita di Proust o la mia. Ma io ho vissuto 30 volte le cose che ha vissuto Proust. Che cosa è successo a Proust? Pochissimo. Vi dico le prime cose che mi stanno venendo in mente. Proust era un ragazzo da ragazzo, era un ragazzo ricco, figlio di un'ottima famiglia. La madre era ebrea. Questo gesto gli dice qualcosa. Il padre era un professore universitario, un medico importante, persone molto serie, alta borghesia. Lui aveva un fratello minore di 2 anni che divenne anche lui un medico. Tutte persone molto serie. Lui fece degli studi di diritto, di legge, però non gli piacevano, li lasciò, studiò lettere, ma insomma non si distinse particolarmente negli studi. Poi si trovò l'occasione di cercarsi un lavoro. La famiglia tollerava molto male che, per quanto avessero soldi, lui vivesse a sbaffo. Io credo che anche a voi capiterà che i vostri genitori vi dicono a un certo punto: ma come campi? Vuoi lavorare? Questo discorso è stato fatto là, no? Che vuoi fare in futuro? Non è che possiamo mantenerti a vita. Oppure i suoi genitori gli hanno detto: ti possiamo mantenere a vita. Non gli hanno detto. Chi è una persona a cui hanno detto una cosa del genere? Non lavorare, perché ti manteniamo. A lei l'ha detto questo. A lei l'ha detto. Senta, ma lei ha uno stipendio familiare, scusi, questa è di piccola cosa, di superiore o inferiore ai 2000 euro la settimana? Inferiore, eh? Proust aveva un sacco di soldi a casa e poi ne ha ereditati molti, però a un certo punto doveva pur lavorare. Faceva il collaboratore a delle riviste con delle recensioni, con degli articoletti. Poi fu anche bibliotecario. Pare che nel lavoro della biblioteca creasse un casino pazzesco, per cui lo pregarono di andarsene. Quanto alle recensioni, agli articoli che faceva su una rivista che si chiamava La Renaissance Latine, era un suo amico, non importa che ricordiate il nome, si chiamava Constantin Brancovan, sempre alta borghesia, nobiltà, eccetera, che era il direttore della rivista. Sua sorella era un'amica di Proust. Quando seppe che Proust, la sorella di Brancovan, era uno che collaborava alla rivista, gli disse: ma tu sei matto a chiedere a uno come Proust di collaborare? Ma quello è un matto, fa una vita pazza. E la cosa che conoscono anche i bambini su Proust, lui non vive di giorno, lui vive di notte e dorme di giorno. E come fa uno a fare un lavoro normale in queste condizioni? Insomma, Proust, dopo qualche lavoretto, non lavorò più. Era omosessuale, introduciamo questo grande tema. Ora, siccome voi siete ragazzi che vivete in questo tempo, voi non sapete nemmeno lontanamente che cosa significasse un tempo essere omosessuale. Era sentito, ma questo, quando io ero un ragazzo, era sentito come se tu avessi molto più che se tu fossi un pedofilo. Molto di più. Come se tu avessi stuprato e ucciso una ragazza nascosta, sepolta la ragazza nel giardino di casa tua. Capite? Era un'ignominia assoluta, nessuno lo dichiarava. Cioè una situazione culturalmente diversa da quella attuale, come non riuscite nemmeno a figurare. Proust, quando cominciò a capire che era omosessuale, all'idea di venire scoperto da sua madre, era terrorizzato. E solo quando i genitori furono morti, si sentì libero di dedicarsi a quella che era la sua tendenza più profonda. Che c'era da raccontare della sua vita? D'altra parte, come si fa a scrivere un romanzo senza parlare di se stessi? In una qualunque storia che noi inventiamo, chi sa scrivere parla di se stesso. Lui voleva scrivere di se stesso. Cominciò a scrivere il primo abbozzo di quello che sarebbe stato la ricerca. Venne intitolato postumo questo abbozzo dal nome del protagonista, Jean Santeuil, molto importante questo. Lavorò a questo abbozzo, che lasciò incompiuto, era un grosso libro, alla fine del secolo, tra il 1894 e il 1899, e poi lo lasciò incompiuto. Attenzione, questa storia viene scritta la terza persona singolare, cioè Jean faceva eccetera eccetera, mentre la recherche è scritta alla prima persona singolare, io faccio eccetera. Tra Jean Santeuil e la recherche c'è un abisso. L'abisso è dovuto al fatto che nel romanzo Jean Santeuil, che tuttavia contiene delle cose molto belle, lui racconta sostanzialmente la sua vita, solo che la sua vita, raccontando anche episodi che gli sono accaduti, è del tutto insignificante. Quindi non si può fare su una cosa così insignificante costruire una storia. Capisce che non la sua vita è importante, ma è importante il racconto di una condizione umana, di una condizione umana generale. E quindi nel romanzo, nella recherche, non parla più direttamente di sé, parla di due grandi temi della condizione umana: il tema dell'amore e il tema dello snobismo. Voi sapete che cos'è lo snobismo? Cos'è lo snobismo? atteggia magari ad una condizione che non è la propria. Non è la propria, la definizione è giusta. Sulla parola snob c'è una teoria tendenziale. Snob non vuol dire come si pensava, non è un acronimo per dire sine nobilitate, non nobile. Snob. Snob è una parola dialettale inglese che venne usata dagli studenti dell'Università di Oxford per indicare tutti quelli che venivano da fuori, quindi che erano sentiti in quest'università, che come sapete Oxford, Cambridge, sono alcune tra le grandi università del mondo, venivano sentiti di serie B in qualche modo. Ma che cosa sia lo snobismo lo vediamo giovedì. Non è affatto solo quello che dice, lei si chiama Michele, non è affatto solo quello che dice Michele. Lo snobismo è il male più profondo dell'uomo. E questo lo vediamo giovedì. Ho i libri da procurarvi, mentre per il primo anno, il primo corso è Baudelaire, Le fleurs du mal. Voi dovete procurarvi due libri che sono La prisonnière e La fugitive. E cioè il quinto e il sesto tomo della Recherche, La prisonnière e la fugitive. Siccome leggere Proust è un'impresa, voi dovete avere, anche se io non lo voglio vedere all'esame, anche i testi in italiano, quindi dovete comprarvi La prisonnière e la fugitive anche in traduzione italiana. Come si svolgerà l'esame? Io commenterò dei passi, ovviamente in francese, della prigioniera, della fugitive, chi mi conosce sa che lavoro in questo modo, e voi dovete saper commentare questi passi. Se leggete in francese tutto, è naturalmente infinitamente per me, meglio per voi anche dal punto di vista dell'esame, ma come non si può far tutto, siete autorizzati il resto a leggere in italiano. Ripeto, chi lo legge in francese naturalmente molto meglio. Comunque sono questi i due libri che considereremo da ordinare adesso insieme a Baudelaire, perché purtroppo ci si mette un po' di tempo per le ordinazioni e voi dovete averli subito. Ove mai non riusciste in tempi rapidissimi a ordinarli, c'è internet e troverete attraverso internet, Amazon, ci sono tanti sistemi, insomma, no? Per avere questi testi. Per esempio, non so, Le fleurs du mal chiaramente si trova su internet, non ho alcun dubbio. Ecco, ci sono senz'altro. Ma soprattutto credo che si trovi anche La prigioniera. Va bene? Sì.